in primo piano. Buongiorno, buon venerdì, buon primo venerdì dell'anno da Giulia Crivelli in questa giornata festiva, e quindi abbiamo una rassegna stampa un po' più breve del solito. Cominciamo però come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra sulla vicenda finanziaria di ieri, economico-finanziaria, che è quella della definizione dei criteri per i rimborsi ai 175.000 soci di Veneto Banca e Vicenza. Sono stati stanziati 600 milioni, pari al 15% del valore di carico, e lunedì sono attesi i due CDA delle due banche. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche questo titolo, che poi rimanda ad articoli che trovate a pagina 5. Ferrero, accordo pilota sul fisco. Di che cosa si tratta? È il primo caso di quella che, mutuando un termine anglosassone, perché lì è un po' stato creato questo tipo di rapporto più amichevole, diciamo, con il fisco, si chiama cooperative compliance, ossia accordi preventivi con il fisco che consentono scambi di informazioni con le grandi aziende per limitare i rischi fiscali e favorire gli investimenti. Apripista appunto il gruppo Ferrero, ma ci sono in vista, trovate tutto a pagina 5, ci sono in vista altri patti con grandi aziende bancarie del settore assicurazione. La prima pagina del Corriere della Sera invece ha un titolo diverso: controlli in carcere su 373 detenuti a rischio terrorismo. Il riferimento è diretto a quello che ha detto ieri il Premier Gentiloni, che il rischio della cosiddetta radicalizzazione, cioè da chi semplicemente da semplice, tra virgolette, musulmano diventa un terrorista in nome dell'Islam, avviene in carcere e sulla rete, e da qui appunto una stretta sui controlli in carcere. La fotonotizia però è stata scattata nel centro Italia, perché la neve, sapete, ha cominciato a cadere soprattutto appunto in centro Italia, e da qui l'articolo che poi trovate a pagina 19: la neve copre i paesi feriti dal territorio dal terremoto, scusatemi. Vi segnalo un articolo, sicuramente vorrei che ci fosse qui Alessandro per leggervelo, perché qui non siamo alla settimana decisiva per l'abolizione delle province, anzi, perché pensate che le province redivive, come scrive Sergio Rizzo sulla prima pagina del Corriere della Sera, e poi trovate il pezzo a pagina 24. Le province sono appunto redivive, domenica in 38 andranno al voto e chiedono soldi. Temevano di essere cancellate dalla carta costituzionale, ma il referendum, come sappiamo, non è passato, e ora le province sperano, chiedono fondi e domenica torneranno al voto per 38 consigli e 16 presidenti. E poi in prima pagina richiamato, e trovate poi tutto all'interno e anche su altri giornali, come adesso vi dirò, non su tutti in realtà, questa vicenda che mostra come in Italia la coerenza non paghi mai, anzi forse addirittura chi cerca di essere coerente viene preso un po' per un ingenuo. Perché si scopre che la CGIL, che è la promotrice, con una raccolta firme monster di oltre 3 milioni di firme, di un referendum per l'abolizione di quella parte del Jobs Act che riguarda i voucher, in realtà li usa, e ce lo racconta Dario Di Vico. L'inizio dell'articolo è in prima pagina e poi trovate il resto a pagina 10. E la CGIL usò gli odiati voucher. La SPI-CGIL dell'Emilia Romagna, cuore potente del sindacato di Susanna Camusso, è nell'occhio del ciclone perché utilizza lavoro occasionale, i famigerati voucher, gli stessi che la CGIL vuole abolire con il referendum. Qualcuno potrebbe dire: i voucher, i difensori dei voucher dicono che si possono usare ma non abusarne. Vero, magari questo è proprio un caso di uso, ma allora non si spiega comunque perché la CGIL continui a dire, per bocca di soprattutto di Susanna Camusso ma anche di Lardini, leader della FIOM, noi non vogliamo modifiche ai voucher, che sappiamo sono allo studio, ne vogliamo l'abolizione. E vi dicevo che su altri giornali questa questione è trattata con vari toni e vari spazi. Per esempio sul Manifesto non si parla di questo problema del fatto di incoerenza, del fatto che una parte importante della CGIL, in una regione dove la CGIL è ancora molto radicata, l'Emilia Romagna, li usi. No, ci si concentra solo, un articolo a pagina 6, sulle indiscrezioni di ieri, e anche in realtà poi un parere dell'Avvocatura dello Stato, quindi indiscrezioni su come si starebbe orientando la Corte Costituzionale prima dell'11 gennaio, quando darà il parere sull'ammissibilità dei referendum di cui abbiamo parlato, e poi il parere dell'Avvocatura di Stato, entrambi questi, su, da entrambe queste parti ci sarebbe un no al referendum della CGIL. Questa è l'unica notizia che troviamo sul manifesto riguardo a questa questione. Invece Libero dà molto più spazio, inverte un po' l'ordine delle notizie, o meglio, sul manifesto la notizia dell'uso dei voucher da parte della CGIL in Emilia Romagna proprio non c'è. Invece Libero titola a pagina 5: la CGIL non vuole i voucher ma poi li usa, e spiega appunto che cos'è questa questione, e poi invece in basso riporta questo parere dell'avvocatura dello Stato che avrebbe già dichiarato i quesiti inammissibili, ma sappiamo che l'ultima parola spetta, come abbiamo detto, alla Corte Costituzionale. Lo stesso criterio segue il giornale, il pezzo principale è Camusso sbugiardata, anche la CGIL usa i voucher, e poi subito sotto l'articolo sul parere dell'avvocatura, così lo Stato vuol salvare il Jobs Act e scongiurare il rischio referendum. Anche l'Unità parla solo del parere dell'avvocatura, articolo 18, perché un altro dei referendum che la CGIL ha chiesto con questa raccolta firme è quello per reintrodurre l'articolo 18. Articolo 18: per l'avvocatura dello Stato è un quesito manipolatore, quindi parere negativo, e poi però abbiamo detto dobbiamo aspettare l'11 gennaio. Va bene, torniamo alle prime pagine. La Repubblica ha una fotonotizia, una prima pagina abbastanza strana oggi. La Repubblica ha una fotonotizia al centro, scattata a Mosul. Roberto Toscano correda poi anche un reportage fotografico di Paolo Pellegrin sulla battaglia, quella che viene definita la battaglia decisiva contro l'ISIS, che si combatte appunto a Mosul, gli occhi della guerra. E poi a lato due questioni che evidentemente la Repubblica ritiene in qualche modo correlate: da una parte gli aggiornamenti dalla Turchia, dove sapete ieri c'è stato un altro attentato con altri 4 morti, questa volta a Smirne nel sangue, autobomba fa strage davanti al tribunale, e il pezzo è firmato da Lucio Caracciolo, che oltre a essere il fondatore e il direttore di Limes, che è un mensile di geopolitica, è appunto anche un grande esperto di tutte queste questioni, dove si intrecciano ragioni politiche, storia, geografia e naturalmente anche in tempi recenti i focolai di terrorismo. E dall'altra parte, a fianco, sempre sotto questa fotonotizia, c'è invece un articolo di Carlo Bonini che dà conto di quello che è stato detto ieri dal Premier Gentiloni, che ha illustrato la relazione conclusiva della Commissione sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista in Italia. E come dicevo prima, la parte più importante è questa conclusione che indica la radicalizzazione come fenomeno che si verifica soprattutto in carcere e su internet. In prima pagina sulla Repubblica anche la scomparsa di Tullio De Mauro, lo vedremo dopo. La Repubblica dedica 2 pagine intere al linguista scomparso ieri a Roma. Aveva 84 anni, sapete, è stato anche ministro dell'istruzione e in un governo Amato, e tra l'altro il ricordo qui è affidato a Francesco Erbani con un bellissimo ritratto di Tullio Pericoli. Trovate poi appunto questi ricordi a pagina 34 e 35. E tra l'altro tutti sottolineano che anche proprio oggi che si ricorderà tra l'altro il fratello di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha ucciso la mafia, anche il fratello di Tullio De Mauro fu ucciso dalla mafia, Mauro De Mauro, una famiglia così comunque importante nella storia dell'Italia. Io ricordo sempre con piacere anche Giovanni De Mauro, che è il figlio di Tullio De Mauro, è il fondatore e anche direttore di Internazionale, che tra l'altro torna in edicola oggi con un numero nuovo dopo quello speciale di Natale. E Tullio De Mauro aveva una rubrica da linguista su Internazionale. Questa settimana ho controllato, non c'è, ma c'era ancora 2 settimane fa. Ma tornando alle prime pagine dei giornali, Il Giorno mette in prima pagina Susanna Camusso, il titolo: doppia morale. Voucher, Camusso vuole abolirli, ma lo CGIL ci paga i volontari. Il titolo principale però è dedicato ai migranti. Governo isolato, il riferimento è a quello che Il Giorno definisce un coro di no ai nuovi centri di identificazione ed espulsione che ha delineato il nuovo ministro dell'Interno, come sapete, nei giorni scorsi. La prima pagina del Corriere del Messaggero: 6 combattenti ISIS in Italia. Questo è un altro dato trapelato ieri. Ci sarebbero 100, qui i numeri variano un po'. Comunque, secondo il Messaggero, sarebbero 153 i detenuti pericolosi. Rischi vengono da 18 italiani che si sono convertiti all'Islam. E per quanto riguarda i foreign fighters, cioè per esempio nel nostro caso italiani che vanno a combattere, per esempio in Siria, c'è la massima allerta su chi è tornato. La Stampa ha una fotonotizia diversa dedicata, anche se molti giornali poi ne parlano, a un compleanno, quello dell'iPhone, perché esattamente 10 anni fa Steve Jobs, che all'epoca era amministratore delegato e presidente della Apple, era tornato e la stava rilanciando anche con l'iPhone. Anzi, a quel punto l'Apple era già rilanciata, Steve Jobs fece un primo miracolo con quei PC colorati, ricorderete. Il titolo dell'articolo, che poi trovate a pagina 19, quell'oggetto che ci ha rivoluzionato la vita. Secondo chi, appunto, chi ha osservato questo fenomeno, 10 anni fa Steve Jobs lanciava appunto il primo iPhone, da allora niente è stato più come prima. Un po' forte come affermazione forse, ma forse è vero. La Gazzetta dello Sport, incredibile, benché si sia alla vigilia della ripresa del campionato di calcio, ha un titolo molto grosso, il cosiddetto palchettone sotto la testata, dedicata a Manfred Mölgg, lo sciatore azzurro, che ieri ha vinto uno slalom a Zagabria, e la Gazzetta riporta anche il commento di Alberto Tomba: è stato super. Tra l'altro Manfred Mölgg ha 34 anni, che per uno sciatore è un'età notevole, ed è infatti, lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, il più vecchio vincitore azzurro in coppa. E pensate, pagina 2 e pagina 3 sono dedicate a questo. Poi il calcio inizia a pagina 4, è però comunque in copertina, soprattutto con un approfondimento sul Milan, nuovo Milan paradiso. Ci sarebbe appunto la Gazzetta svela quale sarebbe il piano del Milan, il piano rossonero, cinesi già al lavoro per luglio e tutte le varie ipotesi di acquisti per la squadra. Avvenire: jihad, prevenire si può, il riferimento è comunque, appunto, abbiamo visto questo rapporto che è stato presentato ieri. E poi subito sotto la fotonotizia, come avevamo ricordato proprio ieri, è stato il giorno in cui Papa Francesco ha dato udienza alle persone che vengono dalle zone del terremoto del centro Italia. Il titolo scelto da Avvenire: Francesco, due punti, ricostruite con il coraggio dei sogni. Il Fatto Quotidiano al solito titolo, come potremmo dire, incoraggiante, sarcastico, ironico, non lo so più neanch'io. Spero di stupirmi presto una volta con un titolo un po' più anche solo cautamente ottimista, o che non attacchi nessuno. Oggi il Fatto Quotidiano se la prende col governo, dice: il governo dà speranza ai giovani, venite da noi a lavorare gratis. Il riferimento è al fatto che il Ministero della Cultura sta cercando personale, ma solo per un anno, volontari del servizio civile e contratti garanzia giovani con degli stipendi molto bassi, di circa 400 euro, scrive il Fatto Quotidiano. Ci fermiamo però un attimo per un aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Finiamo con le prime pagine degli ultimi quotidiani che non abbiamo ancora citato. Il Manifesto, il titolo, come spesso accade, ad effetto: l'avvocatura del diavolo, quindi non l'avvocato del diavolo ma l'avvocatura del diavolo. Il riferimento è a quel parere che abbiamo sentito, che sarebbe secondo il quale il quesito sull'articolo 18 proposto dalla CGIL sarebbe inammissibile. Come vi dicevo, nessun accenno né in prima pagina né tantomeno all'interno sulla questione della CGIL che usa i voucher nell'Emilia Romagna. Un'intervista a Enrico Rossi, che è il governatore della Toscana e sapete che sarà probabilmente lo sfidante più importante per guidare il PD, la segreteria del PD al posto di Renzi. Si scaglia contro i CIE proposti da Marco Minniti. I CIE sono da abolire insieme alla Bossi-Fini. L'Unità, la via italiana alla convivenza, e invece cerca di illustrare la proposta Minniti spiegandone i vantaggi e le differenze rispetto ai CIE precedenti. Nuovi CIE da 100-150 posti, uno per ogni regione, per un mese massimo di permanenza. Il Giornale invece riprende alcuni articoli usciti ieri e si compiace del fatto che molti esponenti della, diciamo, del centro-sinistra abbiano capito la pericolosità dell'Islam radicalizzato, a cominciare da Roberto Calasso, che ieri, fondatore della Delphi, ieri ha scritto appunto un lungo articolo sul Corriere su questo. Da qui il titolo dell'articolo poi di Piero Ostellino, che è anche il titolo di apertura del giornale: siamo in guerra, ora l'ha capito anche la sinistra, il governo si sveglia, un piano contro il radicalismo islamico. Libero, processiamo Grillo, la foto è di, si vede solo la testa di Beppe Grillo che emerge da uno specchio d'acqua azzurrissimo. A proposito di balle, oltre al tribunale speciale per le bufale dei giornalisti voluto dal Movimento 5 Stelle, istituiamone anche uno che smascheri i politici. Primo atto d'accusa, il video in cui Beppe fa l'elogio della povertà è un tarocco registrato. In realtà lui è in vacanza, ma l'India a spassarsela nel paradiso dei milionari. Beato lui, ma la coerenza è un'altra cosa. La verità, l'ultima prima pagina, poi vediamo qualcosa all'interno dei giornali in questi circa 10 minuti che ci restano. La verità, immigrati, il governo piazza una bomba in ogni regione. Il riferimento è, come abbiamo visto sull'Unità, all'idea che ci potrebbe essere un nuovo CIE, questi CIE di nuova generazione potremmo dire, in ogni regione, come ha detto ieri Minniti. In prima pagina anche un approfondimento sulla questione Rai. Sapete, ieri i giornali davano conto delle dimissioni di Carlo Verdelli, oltre a quelle precedenti di Francesco Merlo, e alle difficoltà di Gabriele Romagnoli, che dovrebbe essere direttore di tutta l'area sportiva, ma è stato sfiduciato dalla redazione, quindi il caos Rai. Aldo Forbice oggi a pagina 15 sulla Verità ribadisce: Campo Dall'Orto, che è il direttore generale, deve sparire insieme con i TG regionali e le 3 reti Rai. Il riferimento è in parte, ma poi appunto trovate tutto a pagina 15, al fatto che nel piano che il CDA della Rai ha rigettato, quello messo a punto in oltre un anno di lavoro da Carlo Verdelli, venivano anche previsti alcuni accorpamenti e modifiche nella offerta informativa della Rai. Ma veniamo al Sole 24 Ore, perché oggi, come essendo festivo, Mauro non è con noi, ma naturalmente tornerà lunedì, quando torna anche Alessandro Milan alle 6:30 con il Parlamento e poi con la rassegna stampa. Quindi dal Sole 24 Ore vi segnalo l'esito delle aste che ci sono state, l'esito del, abbiamo visto come è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, quello che è successo con la Banca Popolare di Vicenza, ieri, con questo concreto passo per indennizzare i risparmiatori. Trovate tutto alla pagina 4. Prosegue la serie per capire cosa sta succedendo nell'industria. Ricordiamolo sempre, noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, la nostra economia è trainata dall'industria, non dai servizi, e continua quindi la serie del barometro dell'economia. Per quanto riguarda i territori, a pagina 8 trovate tutto quello che riguarda il Lazio. Il Lazio vede l'uscita dal tunnel grazie a automotive, meccaniche e servizi. E invece a pagina 9, sempre la serie del barometro dell'economia, questa volta fatta per settori, il digitale cavalca Industria 4.0. Nel 2017 la produzione, prevista a più 1,7%, consoliderà il trend dell'anno appena concluso. E ancora un approfondimento in finanza su Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Come abbiamo visto, è pronto un rimborso per 175.000 soci. Un approfondimento anche su Mediaset, che il 18 gennaio presenterà il suo piano industriale a Londra, che è la principale piazza borsistica europea. Sappiamo che molte aziende, anche italiane, presentano appunto i loro piani industriali alla comunità finanziaria a Londra. A proposito sempre di prospettive per i settori, abbiamo visto nelle pagine di Imprese e Territori il Lazio e l'economia digitale, e qui invece a pagina 20 di Finanza e Mercati Paola Dezza ci racconta il real estate, che cerca la svolta nel 2017, l'immobiliare punta a confermare i segnali di ripresa nelle compravendite. Norme e tributi, leggiamo religiosamente la prima pagina di Norme e tributi, che invece ci proietta già nel 2017 con il 730. La bozza del nuovo 730 è già sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Esordio per la detrazione dell'IVA per l'acquisto di immobili, e quindi il titolo: il 730 accoglie i nuovi bonus, spazio ad hoc per premi di risultato e agevolazione su immobili alle giovani coppie, e naturalmente tantissime altre novità. E poi un altro approfondimento sulla voluntary disclosure, lo trovate a pagina 16, e invece sulla rottamazione delle cartelle, che sono, queste sono rispettivamente la 16ª e la 15ª pagina di questa serie, che trovate nella pagina di norme e tributi sulle novità per il 2017, su casa, fisco e pensioni, pagina 15 tutta dedicata alla rottamazione delle cartelle. E già che ci sono, vi ricordo, come ricorda anche il Sole a pagina 31, che mercoledì ci sarà la guida in edicola con il Sole 24 Ore, la guida a tutte le novità per le pensioni, tra le quali la famosa APE, le regole per gli assegni, l'anticipo APE e il cumulo gratuito. Vediamo invece dall'interno delle pagine del Corriere della Sera quell'approfondimento che vi citavo sulla vicenda delle province, l'articolo di Sergio Rizzo, pagina 11, 38 province tornano a votare, ma non dovevano scomparire. Domenica le elezioni di secondo grado, le loro competenze restano le stesse, ma le casse sono vuote. Una vicenda un po' paradossale, molto italiana potremmo dire. Un dossier molto interessante a pagina 8 della Repubblica sulle espulsioni, perché si inceppa la macchina dei rimpatri. Dai CIE ormai diventati una polveriera, ai costi dei respingimenti, fino ai piani europei di accoglienza mai rispettati. Ecco in concreto come dovrebbe funzionare la gestione dei profughi e come invece incontra spesso difficoltà quasi insuperabili. Secondo me molto interessante, perché così appunto è meglio quando si sente parlare di rimpatri, espulsioni. Vediamo però concretamente che cosa significa, quanto ci costa, quali sono le cose che davvero si possono fare magari anche dall'oggi al domani e quelle che invece sono solo nel libro dei sogni dei politici. Vi dicevo le due pagine dedicate a Tullio De Mauro, 34 e 35, l'articolo principale di Francesco Erbani, ma c'è anche un ricordo di Stefano Bartezzaghi e due interviste. Una a Giuliano Amato, che lo definisce un ministro professore che non fu mai elitario, e una al grande critico Alberto Asorrosa, il mio geniale e ironico compagno di scrivania. Vi dicevo della RAI, ecco, a pagina 9 un articolo di Paolo Festuccia. La nuova RAI è un flop quasi totale, crollano decine di programmi. Pensate che nella giornata media la RAI ha perso il 2,04 di share, superata da Mediaset che invece ha guadagnato l'1,29. Reggono solo le fiction dell'era pre-Campo dell'Orto, ma questo a un anno e più di insediamento dal direttore generale non gli basta per pensare magari o a cambi radicali di strategia o magari alle dimissioni come alcuni invocano. No, abbiamo sentito che ieri Campo dall'Orto ha detto no, io vado avanti. Campo dall'Orto naviga a vista, il retroscena di Amedeo la mattina, il direttore generale cerca una via di fuga, però sono molti insomma le persone che stanno cercando di fare pressione su di lui, perché se non altro si cambi radicalmente il corso di questa nuova RAI, che doveva essere una nuova RAI. Poi a pagina 10 e 11 la Stampa ha un approfondimento sul trasporto pubblico locale. È frutto di un rapporto internazionale, di un'analisi internazionale, e viene fuori questo, che 20 minuti alla fermata. A Roma il record d'attesa per i mezzi pubblici. Gli abitanti della capitale trascorrono 79 minuti al giorno sui bus. Solo Napoli fa aspettare di più i passeggeri. E invece a Milano abbiamo un record positivo. In effetti chiunque usi i mezzi a Milano, anche se adesso ci sono delle polemiche, le trovate però soprattutto sulle pagine milanesi dei quotidiani, ci sono delle polemiche perché per risparmiare sono state abolite alcune linee notturne, e peraltro però da lunedì verrà anticipato di un'ora l'inizio delle corse della metropolitana al mattino. Il Messaggero è l'unico giornale oggi a ricordare l'anniversario della strage a Charlie Hebdo, che avvenne il 7 gennaio del 2015, il massacro dei giornalisti del settimanale satirico a Parigi. Sono previste alcune manifestazioni per ricordare appunto questo terribile attentato di 2 anni fa esatti. Oggi Del Rio, ieri ministro delle infrastrutture, concedeva un'intervista al Messaggero sulle infrastrutture, appunto. Oggi invece all'Avvenire concede un'altra intervista, ma per parlare del piano povertà. Il piano povertà, ok, entro un mese, questo è l'annuncio, e vedremo appunto, teniamo il conto, vediamo se il 6 febbraio questo piano povertà sarà pronto. L'Avvenire sottolinea anche un'altra questione, che è quella che questa ondata di freddo colpirà soprattutto le persone abbiamo visto sicuramente cattive notizie per le aree terremotate, ma anche per tutti i clochard che vivono nelle nostre città. Freddo, clochard a rischio, ecco i piani delle varie città, con un appello lanciato ieri dalla comunità Sant'Egidio. Ultimissima segnalazione da La Verità, che sta aggiornandoci sulla vicenda dell'artificiere rimasto ferito nel cercare di disinnescare una bomba a Firenze. Christian Campigli ci spiega che cos'è questa oscuro sottobosco di una Firenze anarchica. La bomba costata mano e occhio a un poliziotto non è un episodio isolato, appunto, tutto a pagina 10 della Verità. Ultimissima segnalazione per oggi, ancora grazie a Peter Pescapè in regia, grazie a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo domani alle 6:15 se volete per la rassegna europea, domenica alle 7:30, poi lunedì torna Alessandro Milan. Buon venerdì a tutti.